fucking shit. Got moving. There's no secret plan. We make a bargain. It's a fucking shit. Got moving. Go. Grazie amici. Grazie. Sì. Noi vogliamo ringraziare lo ZK, che è il posto che ci piace di più al mondo. E tutti voi che siete stati da ieri a oggi e ci starete domani. Che. Oh, che cazzo state, cioè, insomma. Grazie. La prossima canzone è la storia di uno di una certa età che non ce la fa più a fare il punk. Guarda me, su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You remember well, we fought the punk, your battle memories, the better times, my life. So you had no facts with the big fans of change. Jungle on the mass, die on the floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We'll be every day. The best punk rock and on the tempo way. We'll be every day. The best punk rock and on the tempo way. They say we hold. They say we can't stop it. And I'm not betraying if I will show. And no facts with the big pants on chain. Drunker on the bus, guy on the floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. We'll be every day. The best punk rock and on the tempo way. We'll be every day. The best punk rock and on the tempo way. The best punk rock. Grazie. You just must. everything's gonna be alright. Don't ever be so shy, you just need more time. Everything's gonna be alright. To get home, my friends and fly to Mexico. I want to stay the man with you. Tomorrow we'll be flying for me within Mexico. Step by, help me, and let's go. Hands on the grip, let's get to Mexico. Even police, never find Mexico. In my new life, I want to call me Gary, so now you won't find me no more. I want to kill all my friends and fly to Mexico. I want to steal the band with you. Tomorrow we'll be flying for me, we'll be in Mexico. Stand by, spread me, and let's go. You have to hold the kid, let's get to Mexico. Even police, never find Mexico. Arizona, you won't find me no more. You won't find me no Grazie amici. Un applausino speciale a questo ragazzo qua alla batteria che oggi sta malissimo, ma è venuto comunque. Un incoraggiamento. Dai Fabio, ce la fai. Dai cazzo. Dai, mannaggia Gesù. La prossima canzone è su... No, di più. È su un gran fagiolo. Another day go by slowly. This is a change, but I want to go. He covered us, stand up for it. But run away from me, I want to go. Come to your heaven. We just have a little sunny days. We hate you forever again. Come to your heaven. Can't wait for you to come. Hope I will not blame me. Blowing not a cool from your oh oh. Blowing not a cool from your oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. But I want to go, oh, want to go, man. You're out with your fabulous animals. Me and you forever, man. Come to you, oh, oh. Can't wait for you to come. Oh, but we know, bless me. Blowing out the course of you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aspetta tutto sto tempo per poi una canzone che non è manco niente di che. calon di sotto. E va toglia a fare a te la scheda e per il web. Stay bold every day. You are hot to my chest, not to all the pants I have. Believe me, it's all my fault. Come, they lost and follow us, they're not talking and we are around. They haunted every girl of mine. Hey, yo, that's my bed. That is past my bed. Adesso ci dà una mano un nostro amico qui. Il prossimo pezzo è un pezzo che abbiamo fatto negli anni 70. Piace vincere facile queste canzoncine. Il prossimo pezzo è sempre un pezzo degli anni 70 e è sempre uguale a questo. Si chiama Love Me Tender, no? È sempre uguale a tutte le altre, ma con una variazione che poi a un certo punto ci cascano i pantaloni. Hai detto, l'hai detto. Non è vero, non è vero. Era una gags. proporre un esperimento mai tentato prima. Adesso ne facciamo un'altra che è simile. Un esperimento di traduzione, però ci servirebbe una mano due amici da quei due ragazzi lì. Allora, adesso la canzone che faremo vi sembrerà quasi uguale a quella che abbiamo appena fatto, ma in realtà non lo è, è tutto un altro pezzo, è cantato in un'altra lingua, è diverso. Molto simile, ma non è la stessa, Attenzione. Ciao! Mazza quanto è alto Marco! Un ringraziamento ai ragazzi di Ostiavalusa, è stato fin qui tutto molto molto bello. In particolare quello con la maglietta rosa. Thank you. terribile, raga. Dai, mo Gaiman the Animal, oh. Poi Gaiman the Twister, un nuovo gruppo. Adesso ne famo una e se ne va a moda di coglioni, no, grazie. Questa è una canzone che ci teniamo quasi quanto Dio ci tiene a Gesù. Quasi. No, è tipo è telecorda, visto, ce n'ha tre. Ciao a tutti.